Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera a Giulia Settimo. Buonasera, buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Giulia Settimo è autrice di un libro, Mi invento un lavoro, piccola guida per trovare nuove opportunità, edito da Red, 160 pagine, 10 euro, un libro che è in quest'era appunto della precarietà, della difficoltà, della necessità di trovare un lavoro un po' a tutti i costi, perché dobbiamo pur vivere. Ecco, Mi invento un lavoro non è solo un manuale teorico, ma è un racconto di tante storie di persone che si sono inventate un lavoro. Ecco, in che senso, Giulia Settimo? Ma nel senso che hanno avuto delle idee, hanno avuto anche coraggio, inventiva, certe volte un po' di temerarietà, hanno avuto tenacia, hanno avuto la capacità di superare alcune difficoltà, perché più o meno tutti nel loro percorso all'inizio hanno trovato qualche difficoltà o hanno avuto qualche delusione rispetto a quello che si immaginavano, però poi sono riusciti a realizzare un'attività che non solo gli dà da vivere, ma che ha migliorato la qualità della loro vita. Ecco, una delle caratteristiche di queste storie è che non si parla solo, ci sono anche storie di appunto aziende altamente tecnologiche, nell'high-tech, nell'informatica, di internet e così via, nei social network, ma ci sono anche storie di chi ha trovato un lavoro in cose molto tradizionali, come fare la polenta. Ecco, quindi trovare un lavoro vuol dire anche cercare di allargare un po' gli orizzonti, non pensare che tutto sia tecnologia. Certo, anzi io ho proprio cercato di dare dei suggerimenti e di raccontare delle storie alla portata di tutti, perché ho pensato alla tecnologia bisogna avere comunque delle competenze e forse una particolare predisposizione, cosa che per esempio io non avrei per niente, ma invece ho visto tante persone che partendo da cose semplici e magari poi con un'intuizione abbastanza geniale o apportando una novità o delle novità in un'attività semplice, sono comunque riusciti a realizzare delle cose che sono alla portata di tutti, anche di persone che magari non hanno particolare cultura o particolari competenze. Ecco, un capitolo dedicato a come sono brave le donne a reinventarsi. Sì. Perché sono brave le donne a reinventarsi? Ma perché le donne hanno probabilmente più esigenze degli uomini di reinventarsi, un po' perché sono le prime a perdere il lavoro quando ci sono delle ristrutturazioni aziendali, così, un po' perché quando diventano mamme, allora la vita della mamma che lavora è un po' infernale e non tutte si sentono, hanno voglia di vivere questa vita, no? Questo tour de force con sempre due grosse paure, non essere all'altezza sul lavoro e non essere brave mamme. Allora molte si reinventano cercando di trovare un'attività che sia anche più conciliabile con la famiglia e con i bambini. Ecco, quale, sono brave. Tra queste esperienze, qual è la più sorpresa? Quale porterebbe a testimonial appunto di questa possibilità, di questa realtà? Ma forse la storia di Sara, che è veramente bella perché è una giovane donna che faceva l'istruttrice in palestra, lavorando anche per parecchie palestre, quindi girando nella sua zona, insomma un lavoro che veramente non era conciliabile con una bambina piccola. E lei si è reinventata come personal trainer di neomamme, ma non solo come personal trainer dal punto di vista dell'allenamento fisico, ma si è messa a studiare tante cose, ha seguito dei corsi, si è informata, ha studiato, per cui lei si era resa conto che una donna quando ha un bambino si sente molto sola e poco aiutata, ha tanti dubbi, ha tante difficoltà, e allora lei si propone anche come consulente, come per esempio dice che le venivano fuori molte domande sull'allattamento, che è un problema abbastanza cruciale per le mamme. Certo. E allora ha fatto tutto un corso in modo, perché dice io non volevo né dire delle cose senza essere competente né dire non ne so nulla, e allora ha fatto dei corsi, ha studiato l'argomento per poter aiutare le mamme anche su questo. Poi organizza delle piccole vacanze di neomamme con i loro bambini e vanno tutte insieme, non so, al mare o in qualche posto dove c'è qualcuno che si occupa della casa, del cibo, cioè dove loro sono per una settimana almeno sollevate dalle incombenze quotidiane e possono dedicarsi ai loro bambini in una situazione di scambio, di compagnia, insomma una cosa molto bella per aiutare le mamme a sentirsi più a loro agio, più adeguate a superare quelle difficoltà che quasi tutte le mamme hanno all'inizio. Ecco, quindi condividere la propria esperienza, mettere a frutto la propria esperienza anche nei confronti degli altri, ricavare anche qualche contributo, qualche compenso da questa esperienza è certamente un dato positivo. Ecco, un altro elemento che emerge appunto da questo libro sono le possibilità che ci sono nei lavori cosiddetti verdi, delle nuove tendenze biologiche, naturali, la riscoperta della natura. Qualche esempio in questa prospettiva? Ma a me uno che è piaciuto è un certo Massimo Bervellieri che lavora nell'edilizia e insieme a un amico, loro sono due, uno è tinteggiatore e si occupa di verniciature, di tinteggiature, l'altro invece si occupa di edilizia. Questi due signori erano già soci, sono amici e hanno fatto dei corsi, avevano già cominciato spontaneamente, poi hanno fatto anche dei corsi e si dedicano alla bioedilizia offrendo un'azione congiunta sia nella struttura dell'edificio o nella ristrutturazione sia in tutte poi le parti di tinteggiatura interna, perché sarebbe assurdo fare una costruzione basata sulla bioedilizia e poi usare dei materiali chimici per gli interni. E loro mi dicono che pur in un momento, in una situazione di crisi del loro settore, loro invece hanno tantissimo lavoro. Ecco, quindi un lavoro che tiene conto appunto delle nuove, non solo delle nuove mode, ma anche delle nuove esigenze ambientali. C'è un caso particolare che forse merita citare, il caso di Somariamente. Sì, è molto carino, è un posto che io conosco bene perché è sopra il Lago Maggiore. E lì è una piccola azienda agricola dove loro hanno cominciato a prendere una coppia di asinelli per fargli tenere bassa l'erba, cioè praticamente gli asinelli brucando il prato riuscivano a rendere inutile il lavoro di taglio, di continuo taglio dell'erba, che lì essendo un posto anche un po' piovoso eccetera, l'erba cresce molto in fretta, quindi è un lavoro da fare continuamente. Poi si sono resi conto che questi animali sono molto simpatici, sono molto affettuosi, sono anche facili da gestire, non sono come un cavallo, hanno un carattere molto socievole e quindi hanno inventato queste passeggiate per adulti e per bambini a bordo dell'asino oppure con l'asinello che porta magari i bagagli, si va un po' a piedi e un po' sull'asino, e è un'esperienza molto carina. L'asino è un animale che stava diventando quasi conosciuto, e invece adesso in molti hanno riscoperto, perché è un animale anche molto allegro e simpatico, è quasi una specie di cagnolone per certi aspetti, è un po' un cavallino, ecco. Ecco, quindi sfruttare queste occasioni, queste possibilità, cercare di trovare appunto anche nel mettere a frutto quelle che sono le proprie doti, le proprie qualità, il proprio spirito di iniziativa. Sì. Ci sono anche molti casi in cui ci si è inventati un lavoro per realizzare un sogno, magari si è avuto successo, sì. C'è il caso sì. di Grom, della gelateria, che sono partiti dal nulla e hanno creato sì. una catena di gelateria ormai a livello nazionale. Mondiale. Infatti, quindi si possono avere anche grandi ambizioni cercando però di fare un passo uno dopo l'altro. Senz'altro. Allora, io una cosa che suggerisco è di partire da una passione, perché più o meno tutti hanno una qualche passione, e per particolare, per strana che possa essere, pensandoci bene, guardandosi intorno, quella passione può facilmente diventare un lavoro. Certe volte, per esempio, per trasformare una passione in un lavoro bisogna andare altrove, ci sono passioni che non sarebbero coltivabili a Milano, ma lo sono in altri luoghi. E però ho visto appunto che se uno parte dalla sua passione ha anche la voglia, la tenacia per andare avanti, e poi queste persone sono veramente molto felici del lavoro che fanno, perché il loro lavoro è quasi, non dico una vacanza, perché il lavoro poi è sempre impegno, però concilia molto bene quello che loro magari facevano prima nelle vacanze con questa nuova possibilità di lavoro. E c'è un'ultima cosa importante, direi fondamentale, a cui dedica l'ultimo capitolo, perché per reinventarsi un lavoro qualche risorsa, qualche soldo, bisogna pure averlo. Come trovare le risorse, come trovare le possibilità di fare qualche investimento per darsi un nuovo lavoro? Ecco, visto che bisogna guardarsi molto in giro, lì suggerisco di navigare tanto su internet, perché le risorse in fondo ce n'è più di quante si pensa. Non voglio fare le cose troppo facili, non voglio dire che si trovano sempre, però non ci sono solo i fondi europei, ci sono anche fondi regionali, ci sono fondi provinciali, ci sono banche che hanno delle particolari formule di finanziamento, c'è il crowdfunding, che è la raccolta di fondi da privati, cioè una specie di piccolo azionariato, di azionariato diffuso, e in questo la Consob ha appena messo a punto una normativa che è la più avanzata d'Europa per quanto riguarda l'azionariato diffuso. Quindi le possibilità ci sono, bisogna essere... Ci sono dei concorsi certe volte, certo. Io ho citato anche, ci sono stati anche dei giornali che hanno fatto dei concorsi per le start-up più interessanti, per cui se uno va a guardare, e lì do anche tantissimi siti, io in tutto il libro ho citato, e dopo averli visitati, oltre 120 siti che possono dare un aiuto concreto, una serie di informazioni su come trovare dei corsi di formazione, come trovare delle associazioni a cui fare riferimento, certo. Come trovare dei fondi per far partire un'attività, perché oltre al racconto di queste storie che mi sembrano interessanti per dare quella motivazione, quello stimolo emotivo a dire se gli altri ci sono riusciti, magari ci riesco anch'io, volevo anche dare tanti strumenti concreti, certo. O perlomeno spunti concreti per dire guarda, se lo vuoi fare, si può fare. Ci sono, si può fare. Insomma. Grazie Giulia Settimo, autrice del libro Mi invento un lavoro. Indubbiamente inventarsi un lavoro è possibile, ci vuole fiducia, ci vuole coraggio, ci vuole passione, ci vuole anche un po' di fortuna e ci vuole anche trovare anche la strada giusta. In questo il libro, appunto, Mi invento un lavoro, piccola guida per trovare nuove opportunità, può essere anche utile. Edito da Red, ve lo ricordo, a 160 pagine, costa 10 euro. Grazie a Giulia Settimo, grazie a Paolo Corleoni in regia, Laura Faggina e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.